Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medios. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Se non avete mai sentito un twist polacco, questa è la volta buona, ma sarà anche la serata giusta per le imbarcazioni ibride. Buonasera a tutti e tutte e ascoltiamo i titoli di questa puntata. Valentina arriva in città, ma non è quella dei fumetti di Crepax, è Valentina Tereshkova, la prima donna nello spazio, ospite a Bergamo Scienza. Sono pannelli solari liquidi e costano la metà degli altri. Li produce un'azienda di Potenza. Adesso ne abbiamo uno con 13 milioni di cifre e vale 100.000 dollari. Questo è quanto si incassa scoprendo un nuovo numero primo. Silenzioso, a zero emissioni, con un sistema di propulsione ibrido. È la tecnologia italiana di uno yacht presentato al 48esimo Salone Nautico di Genova. Al CERN si spaccano le particelle, ma la storia di 50 anni di esperimenti è anche quella di un'abile e importante alchimia umana. Un gruppo di ricerca internazionale ha svelato il rapporto fra inquinamento e pioggia. Anche quest'anno siamo arrivati alla sesta edizione, parte Bergamo Scienza, è partito questa settimana, durerà fino al 19 ottobre, è una rassegna molto grande con più di 90 appuntamenti, mostre, laboratori, anche appuntamenti musicali e teatrali e parecchi ospiti. Fra un po' più avanti nella trasmissione vi dirò qualcosa di più. Di uno di questi ospiti sta per parlarvi, anzi lo fa subito, Chiara Albicocco. Qualora non abbiate mai ascoltato un twist polacco, questo che vi stiamo proponendo è appunto un twist polacco. Risale a una quarantina e più di anni fa e fu composto per Valentina Tereshkova, che il 26 giugno del 1963 fu la prima donna a volare intorno alla Terra. 48 orbite e quindi una missione di quasi 3 giorni. Valentina Tereshkova in questi giorni è tra noi, è arrivata in Italia ospite del Festival della Scienza di Bergamo. Oggi è una signora di 71 anni che tutti descrivono come molto affabile e anche dotata di un certo carisma. È un ingegnere aeronautico, ovviamente, specializzata in voli spaziali e dopo una lunga carriera oggi è finalmente in pensione. Per capire cosa significò allora la missione di Valentina Tereshkova è necessario ritornare all'aprile del 1961, quando la Russia mette in orbita Yuri Gagarin. È il primo uomo nello spazio. Le televisioni di tutto il mondo mostrano le imprese del decollo. Le immagini sono un po' confuse, ma proprio per questo sono molto suggestive. Si vede Yuri Gagarin nella capsula spaziale e poi il trionfo Mosca tra ali di folle esultante. Il maggiore Yuri Gagarin, il primo cosmonauta del mondo, è rientrato nella capitale dell'Unione Sovietica. Ad attenderlo all'aeroporto di Mosca c'è Khrushchev in persona. Il rituale abbraccio del Presidente del Consiglio al vincitore dello spazio è salutato da un interminabile applauso. Gagarin sorride commosso dell'accoglienza trionfale che gli viene tributata. Anche i membri del governo e del partito lo abbracciano a lungo mentre la folla scandisce il nome del nuovo eroe dell'Unione Sovietica. Fra queste immagini, le sequenze del lancio sono quelle che maggiormente inquietano l'Occidente. Un razzo alto 30 metri decolla verso lo spazio. In testa c'è la navicella di Gagarin, ma tutti capiscono, perfettamente, che potrebbe essere sostituita da un ordigno nucleare. Tuttavia, l'operazione Gagarin rivela una considerevole abilità di marketing del Cremlino. Yuri Gagarin è un giovane pilota con una faccia bella, da adorabile ragazzo, il figlio che tutte le famiglie vorrebbero avere. Passano poco più di 40 giorni e il 25 maggio del 1961... I believe that this nation should commit itself. Questa era la voce di John Kennedy nel suo discorso di quel giorno al Congresso degli Stati Uniti, mentre annuncia che l'America deve porsi l'obiettivo di inviare uomini sulla Luna entro il decennio, riportandoli a casa sani e salvi. Una grande missione che cerca di riequilibrare con una superiore prospettiva futura lo svantaggio evidente nei confronti dell'Unione Sovietica. Nei mesi successivi si moltiplicano i voli umani, lanciano gli americani, lanciano i russi, che però mantengono il primato della permanenza in orbita. ma poi si ritorna sulla Terra, crudelmente. Infatti... We now know that the Soviet Union has decided to transform Cuba into a base... Ecco, questa è la voce di Hedley Stevenson, che il 15 ottobre del 1962 parla alle Nazioni Unite, dichiarando che l'Unione Sovietica ha deciso di schierare a Cuba missili in grado di colpire il territorio americano. Sono passati 17 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e la drammatica prospettiva di un nuovo conflitto planetario con Russia e Stati Uniti in grado di lanciare bombe atomiche sembra tutt'altro che improbabile. È la crisi di Cuba, che dopo 30 giorni di sudori freddi si risolve con un ragionevole accordo tra le due superpotenze. Risulta evidente comunque che le missioni spaziali rappresentano non solo una sfida tecnologica e scientifica, l'era dei missili balistici intercontinentali è iniziata. In questo clima di confronto militar-tecnologico, l'Unione Sovietica mette a segno una nuova operazione mediatica e di grande efficacia psicologica. Infatti è il 16 giugno del 1963, ricordiamolo, quando Valentina Tereshkova ha 26 anni e vola in orbita. È la voce di Valentina Tereshkova che due giorni dopo si affianca nello spazio al volo di Bykovsky. Ormai anche una donna ha varcato il grande confine dell'atmosfera terrestre. L'astronauta americano più giovane ha 10 anni più di lei. Valentina è la versione femminile di Yuri Gagarin. Una bella faccia, acqua e sapone, un'espressione dolce. Ancora una volta, la figlia ideale per ogni famiglia. Però Valentina vola sui caccia MiG dell'aviazione sovietica, ha effettuato 120 lanci con il paracadute e sta studiando ingegneria aerospaziale. È vero che negli anni successivi le donne scompariranno dai programmi spaziali sovietici, ma al momento il bersaglio è centrato. Inevitabile un confronto sulla condizione della donna in Russia e in Occidente. Questi primi anni 60 del secolo scorso, oltretutto, sono i migliori per le condizioni economiche dell'Unione Sovietica, segnati da un livello di benessere abbastanza diffuso, seguito poi da decenni di progressivo declino che portarono alla crisi, nel 1989. Valentina Tereshkova resta dunque una figura che segna per il grande pubblico la storia delle imprese spaziali. È il suo nome che si affianca a quello di Yuri Gagarin e Neil Armstrong. She was born 37. Grew up to join the space program. Nacque nel 1937 e fu scelta per il programma spaziale. Così cantano i Computer Music in questo brano del 2006. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. L'estate è finita, ma io vi devo parlare ancora di caldo con il nostro gioco, il quiz. Fa caldo nella stanza in cui siete, però c'è un frigorifero. Allora vi viene la seguente idea: se apro la porta, la mia stanza diventa l'ambiente da raffreddare. È un po' più grande del frigorifero, però dopo un po' il fresco arriva. Giusto? Ci scriverete giusto. Sbagliato? Ci scriverete sbagliato. Dipende dalla dimensione della stanza. Se è uno stanzino, bene, il frigo ce la fa, altrimenti il sistema non funziona. E ci scriverete dipende. Come? Scriverete con il solito SMS al 349-238-6666, 349-238-6666. Il libro in premio questa settimana è La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano, edito da Mondadori, e di numeri primi, anzi del più grande appena scoperto, parleremo fra poco più avanti nella puntata. In collaborazione con IBS.it. Con Maurizio Melis, che ti saluto. Buonasera Melis. Buonasera Federico, buonasera agli ascoltatori. Dobbiamo parlare di gel, non per i capelli. No. Però ci assomiglia questo. Ci assomiglia. Cioè è trasparente. Sì, sì, è un gel assolutamente trasparente. Diafano. Che c'entra con tecnologie, che c'entra con scienza. Forse possiamo anche dire che i gel in realtà in tanti altri sì, campi sì. Anzi, questa per la precisione è una tecnologia cosiddetta Sol Gel, che si sta diffondendo abbastanza largamente, in realtà anche in altri ambiti, no? Perché è un certo tipo di materia, esatto, insomma, che può essere. Sì. È un substrato, è per un così substrato. Dire, che può servire in molte. È molto molle. Esatto, molto morbido, più o meno come la maionese. Come la maionese. Questo qui però non te lo puoi mettere sui capelli, no. Forse succede un disastro, ma lo puoi mettere dentro finestre. Lo si può mettere dentro le finestre. Allora, dai, esatto. Cos'è sta cosa? Allora, a pochi metri da qui, giusto due piani sotto, della da nostra lunedì, sede qui a Milano, certo. Del Sole 24 Ore, si è svolto l'Italian Energy Summit, sì. Che è un momento in cui si fa un po' il punto sullo scenario energetico italiano, e c'era molta attesa, in particolare per una presentazione. Lo so. Un gel fotovoltaico, mi viene la curiosità di pensare sui capelli che effetto farebbe, ma diventano elettrici. Di certo lo scopo di questo gel è essere iniettato nell'intercapedine fra due vetri di un doppio vetro, oppure spalmato anche su un vetro singolo. Il vetro rimane trasparente, perché questo è un gel trasparente, solo che produce elettricità. Elettricità. Un po', abbastanza, tanta. Beh, circa 100 watt per metro quadro. Siamo mica poco. No, siamo vicini al pannello fotovoltaico, come dire, quello professionale. Professionale, diciamo quello tradizionale. Quello tradizionale. Perché questo è professionalissimo in realtà. Certo. Io però non vorrei dire troppe cose, Federico. Hai intervistato? Ho intervistato Alessandro Cariani, che è l'R&D, quindi ricerca e sviluppo manager di Esco Energy, che è un'azienda, attenzione, di potenza di poco più di 100 dipendenti. La cosa è stata ripresa da diversi quotidiani, televisioni. Io però direi di sentire Cariani, al quale ho chiesto intanto un po' la storia, come è avvenuta questa scoperta. È successo che dal punto di vista scientifico l'intuizione di realizzare un sistema a base silicea sulla base in realtà di prodotti che sono in normale vendita da anni è nata dall'idea iniziale di Becquerel, che ha notato una differenza di potenziale all'interno di una soluzione salina. Si è trattato ovviamente di un lavoro lungo di messa a punto del sistema, ma in realtà quello che abbiamo sviluppato è una logica che è una logica storica, quindi ci siamo basati su quello che è un'esperienza fisico-chimica di un notissimo fisico del secolo, non del secolo precedente, ma del secolo che viene prima addirittura, perché stiamo parlando di fine 800. Stiamo parlando della scoperta dell'effetto fotovoltaico. Ecco, però qui c'è stata come dire, un approccio totalmente innovativo al problema, o c'era qualcosa in giro che vi ha suggerito di procedere lungo questa direzione? Ma in realtà la base chimico-fisica di questo prodotto è una base chimico-fisica che è relativamente facilmente gestibile, trovabile anche in rete se si vuole. Le informazioni sono, grazie a Dio, enormemente disponibili con questo grandissimo strumento che è la rete, che necessita ovviamente di una valutazione di screening, cioè voglio dire, bisogna comunque andare a fare delle valutazioni differenti, ma le informazioni si trovano. Io vorrei provare anche ad entrare un po' nelle caratteristiche di questo sistema. Dunque, si tratta di iniettare un gel nell'intercapedine fra i due vetri di un doppio vetro, e questo produce circa 300 watt al metro quadro. Sbaglio, è un po' di più di quello che produce un pannello fotovoltaico? No, allora, bisogna essere molto chiari ed espliciti e dire che quel valore è un valore teorico massimo in caso di applicazione di un particolare sistema a sandwich che preveda sia la presenza di un normale pannello fotovoltaico sia la presenza di un pannello fotovoltaico, diciamo così, innovativo. In questo momento il valore medio che noi andiamo a realizzare in maniera ripetitiva in laboratorio è leggermente inferiore al 10%, stiamo parlando di circa 94 watt per metro quadro, quindi stiamo parlando di 9,4% di efficienza. E quindi, facendo un rapporto, come dire, qualità-prezzo, il watt prodotto in questo modo quanto costa rispetto ai sistemi tradizionali? Evidentemente il nostro prodotto si va a scontrare, fra virgolette, con un tipo di prodotto che è il silicio amorfo, che ha un rendimento sostanzialmente molto simile a quello del gel fotovoltaico, ma ha un costo circa doppio. Ecco, sì, infatti quel 300% in pratica saltava fuori da cosa? Dai pannelli fotovoltaici fatti con il silicio cristallino, che però è costosissimo, circa 20% di rendimento, più quel 10% che darebbe questo gel spalmato sopra. Ovviamente però l'applicazione principale rimangono le finestre di casa. Certo. Ecco, la cosa interessante mi sembra, questo tecnico che cosa ci dice? Che hanno messo insieme degli ingredienti che già esistono, no? Che esatto. Già esistevano. E questo direi che è proprio un elemento fondamentale di questi procedimenti innovativi che noi come trasmissione, in collaborazione appunto come abbiamo detto tante altre volte con Italian Applications, che è questo progetto che si interessa proprio di cultura dell'innovazione, ecco, questo modo di produrre innovazione mettendo insieme cose che già si conoscono è una delle cose che normalmente non si considera, invece è estremamente importante. Ci sono state veramente tante innovazioni molto importanti, molto forti, che sono nate ricucinando degli ingredienti che erano assolutamente lì sul tavolo. Tu hai anche un altro ospite. Ho un altro ospite che è Giuseppe Vetere, che è il presidente invece di ESCO Energy, il proprietario di ESCO Energy, e al quale appunto ho fatto notare un po' questa cosa, ma anche un'altra riflessione che forse si può fare. Evidentemente c'è stato qualche meccanismo che è scattato, che deve farci riflettere rispetto a come funziona l'innovazione, perché se pensiamo che in Silicon Valley si stanno spendendo miliardi da anni per fare pannelli fotovoltaici a basso costo, insomma, gli ho chiesto anche qua com'è che è andata. Il nostro desiderio era quello di portare a casa dell'utente la fonte rinnovabile, quindi il sole, e l'unico strumento era il vetro per portarlo. Su questi giovani nostri sono stati intelligenti nell'applicarsi, nel cercare di coniare le attuali tecnologie presenti per poterle portare poi a uno stato che, ecco, era la massima trasparenza. Questo è stato fatto. Era un progetto di una semplicità unica. Molte volte, ecco, le idee semplici diventano grandi progetti, i grandi progetti non si concretizzano, restano nella teoria e non vanno nella pratica. La ESCO è nata con il principio proprio di portare a casa dell'utente la rinnovabile, però fare innovazione tecnologica, perché la rinnovabile possiamo portare in qualsiasi modo, però dovevamo anche portare avanti una innovazione tecnologica per abbattere i costi. Beh, senti, siamo d'accordo con Giuseppe Vetere, Maurizio, no? Direi. Visti i risultati, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Grazie Maurizio. Con Valentina Tereshkova all'inizio di puntata vi abbiamo informato su Bergamo Scienza. La manifestazione va avanti fino al 19 ottobre. Guardando il programma direi che tutte le principali aree della ricerca scientifica sono ben rappresentate, dall'astrofisica alle neuroscienze, ai temi della sostenibilità ambientale. In questo campo vi segnalo Monty Jones, lo scienziato che ha sviluppato il seme del cosiddetto nuovo riso per l'Africa. Penso che ci sarà dibattito a quell'appuntamento. Molte le mostre, le foto di James Turner, per esempio, con alcuni scatti assolutamente unici dedicati ai vulcani, però c'è anche musica, Stefano Bollani per esempio, e poi anche teatro con l'anteprima della notte di Keplero. In rete trovate tutte le informazioni, allora Bergamo Scienza fino al 19 ottobre. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Adesso devo parlarvi, ma faccio così, introduco prima il nostro ospite. Buonasera Fulvio Onsel. Buonasera. Matematico, grande divulgatore, ci siamo già sentiti, noi l'abbiamo intervistata per il suo libro L'algoritmo del parcheggio. Adesso lei però mi è finito anche a fare il sindaco. Sì, penso che la matematica sia estremamente utile per una gestione proprio nell'interesse dei cittadini, anche quantitativa. Ah, quindi voglio dire, non è che la razionalità è esclusa dalla politica italiana, ci può stare dentro. Purtroppo è stata esclusa per tanto tempo, perciò io sono entrato in politica proprio per riportare la forza del ragionamento quantitativo. Allora, senta Onsel, cominciamo. L'argomento è i numeri primi. Allora, 2 è un numero primo, no? Sì, certo. Perché si divide per 2 e si divide per 1, quindi per se stesso e per 1. 4 non è più primo. No, perché si può esprimere come 2 per 2. Esatto, quindi è visibile anche per 2. Per 2. Sì. 5 invece è primo, e da questo momento incomincia un viaggio infinito. È infinito, perché non possiamo dire altro. Sì, questo l'ha scoperto Archimede, appunto, che i numeri primi sono infiniti. E quindi su questa è l'unica certezza che abbiamo. Certamente. L'altro giorno ne hanno scoperto uno con 13 milioni di cifre. Ecco, ma continuano a cercare. E continuano a cercare. Ma qui sembra che si cerchi, sembra, è così, insomma, si va a caccia dei numeri primi come una volta nelle nostre pianure, anche se andava a caccia di cervi, insomma. Cioè, non abbiamo un modo. I metodi che abbiamo per trovare i numeri primi, che sono utilissimi perché servono, appunto, non sono delle curiosità, ma servono effettivamente, sono alla base di tutte le tecniche di crittografia per mantenere la riservatezza, e sappiamo cercarli solo con dei metodi estremamente lunghi, estremamente laboriosi, essenzialmente, diciamo, dividendo, cercando di dividere, scoprendo che c'è sempre un resto. Ecco, adesso lei dice con metodi laboriosi, però ormai si usano i computer, come mai anche con i computer ci si mette così tanto? Questa dovrebbe proprio essere una di quelle robe che loro fanno rapidamente. Ma purtroppo, se lei pensa, i numeri sono talmente grandi, la grande invenzione è proprio, per esempio, la notazione posizionale, decimale, per cui si pensi lei quanto è grande un numero con 13 milioni di cifre. Se lei dovesse scrivere 13 milioni di asticelle, no? Si sarebbe fatto l'età della pietra, probabilmente ci vorrebbe l'età dell'universo. No? Certo. Quindi effettivamente i numeri sono così grandi che non si riesce però a trovare dei metodi che riducano il numero di passaggi a il numero delle cifre. Sostanzialmente bisogna provare con tutti i numeri più piccoli, quindi è come un po' ritornare all'asticelle. Ma come in altri casi la matematica invece ha trovato la formula, cioè ha trovato un'espressione estremamente sintetica per descrivere un'infinità, no, di oggetti. Ecco, con i numeri primi noi una formula per trovarli non l'abbiamo. Non abbiamo una formula che ci permetta di calcolarli in un modo molto efficiente, però un modo per definirli complesso, no, con un certo grado di complessità, questo qui ce l'abbiamo, se no non sapremmo nemmeno che abbiamo trovato un numero primo, se non avessimo un modo per cercarlo. Quindi è proprio la mancanza di una formula efficiente. Ma questa formula ci sarà o no? Questo penso che per tanti, no, questo è una sfida ancora aperta, però credo che sostanzialmente non sarà così presto il momento in cui la troveremo. Ecco. Perché io so che c'è addirittura qualcuno che dice forse questa formula non c'è. Ma non credo che questo si possa dimostrare con certezza, cioè, però è chiaro che ci sono comunque dei vincoli di complessità per cui la formula non sarà mai, non permetterà mai di generare questi numeri con una efficienza particolare. Reale, insomma. Sì, reale. Intanto adesso però per chi trova un numero primo c'è un premio da $100,000, quindi la gara si fa, come dire, tesa, entusiasmante, insomma. Sì, perché come le dico sono estremamente utili, sono estremamente utili. Preziosi. Sì. Grazie Ons, per il momento abbiamo detto tutto, qualora lei, magari facendo il sindaco, la formula la trova. Speriamo. In un luogo un po' pazzo. Speriamo. Grazie, buon lavoro. Arrivederci, grazie. Ora devo darvi la soluzione del quiz. Vi ricordate, siete in una stanza in cui fa caldo, vi viene l'idea, visto che in quella stanza c'è anche un frigo, di aprire la porta del frigo e vi dite, beh, insomma, dopo un po', magari non immediatamente, il fresco arriva. È sbagliata questa cosa, assolutamente sbagliata, non c'è nessuna dipendenza dalla dimensione della stanza, non c'entrano queste dimensioni. Il frigo estrae caldo dal suo involucro interno e butta di fatto questo calore nella stanza. D'estate, infatti, ricordatevelo, quegli ambienti nei quali ci sono, per esempio, alcune macchine che distribuiscono bibite fredde, beh, sono stanze molto calde. Quindi, insomma, se aprite la porta, il frigorifero lavora in continuazione e butta il calore generato dal suo motore nella stanza stessa, piccola o grande che sia. Se avete davvero caldo invece dovete entrare nel frigo, ecco sì, ma qui c'è subito una discriminazione fra chi ha i mezzi per un frigorifero grande e chi non li ha. Se poi siete particolarmente benestanti è probabile che possiate entrare nel reparto dei surgelati, ma lì però dopo 6 mesi comunque andate a male e vi buttano via. Questo è bene tenerlo presente. Questa era la soluzione del quiz. Ciao Chiara Albicocco. Buonasera Federico, buonasera a tutti. Allora, tu stai per portarci in mezzo al mare, oddio, forse non proprio in mezzo al mare, ma a Genova. A Genova, dove in occasione del 48esimo Salone Nautico Internazionale. Che c'è in questi giorni. Esatto, inizia proprio questo weekend, dal 4 al 12 ottobre. E prendiamo spunto da questo Salone Nautico per parlare di una cosa un po' particolare, di un'imbarcazione molto particolare. Si tratta di un bellissimo yacht oltre 20 metri. Quindi una bella barca, esatto. Ha una particolarità, è ecosostenibile. Questo ci interessa molto. Esatto, ci interessa molto. A illustrarcelo sarà l'ingegner Andrea Frabetti della divisione AIT, Advanced Yacht Technology, che è a capo, diciamo, del centro di ricerca e progettazione navale del gruppo Ferretti. Intanto buonasera, ingegnere. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, abbiamo detto che è un gioiello tecnologico perché? Nel senso che è ecosostenibile e funziona, diciamo, con un motore a propulsione ibrida, a emissione zero, è corretto? Sì, è corretto. È un motore a propulsione ibrida di tipo seriale, per identificarlo nella famiglia degli ibridi che è molto vasta. Emissione zero, diciamo, ha una tra le modalità operative che ha, questo grande yacht è un'imbarcazione di 23 metri che disloca vicino alle 90 tonnellate, quindi qualcosa di molto grande. E più grande è e più è difficile renderlo a basso impatto ambientale, ecco perché ci tengo a dare la dimensione. Questo yacht ha 5 modalità operative, tra le quali una delle 5 è la Zero Emission Mode, cioè una modalità per la quale la barca si muove e vive. Non dimentichiamo che uno yacht è un elemento abitativo, un elemento vitale, non è soltanto un mezzo di locomozione, per cui ci sono impianti, come in tutte le case, di condizionamento, di gestione della cucina, l'entertainment, eccetera. Lo yacht è un albergo viaggiante. Tutte queste funzioni, quindi sia l'avanzamento che la vita stessa dell'albergo, dello yacht, possono essere a zero emissione. Sì. Lo yacht ha in sé sia i motori diesel tradizionali, di cui alcuni dedicati, due dedicati a muovere la barca, e altri due dedicati a generare corrente, sono motori diesel a basso impatto ambientale, ma l'impatto ambientale ce l'hanno, emettono della CO2. E poi c'è tutto un apparato di immagazzinamento di corrente basato su batterie agli ioni di litio, sono le più avanzate oggi disponibili sul mercato, e un sistema di trasformazione dell'energia elettrica e di gestione, e anche due motori elettrici, per cui l'energia che viene immagazzinata con i motori diesel viene poi restituita per periodi di tempo precisi, definiti, di cui poi magari vi parlerò, viene restituita con una modalità a zero emissione, cioè durante il funzionamento ibrido la barca non ha alcuna emissione né di rumore e neanche di fumo e CO2. Okay. Però è un periodo di tempo, diciamo, noi abbiamo visto un limitato profilo operativo di 9 ore. Di 9 ore. Ecco, per farci capire bene, allora, facciamo qualche esempio. Ci permetterà questo yacht di entrare in porto in maniera silenziosa, oppure di stare in rada senza emettere emissioni, senza inquinare, quindi senza deteriorare l'ambiente che ci circonda, giusto? Assolutamente sì. Infatti il profilo operativo che noi riteniamo più interessante è quello in cui la barca si avvicina, ma neanche tanto, insomma, si approssima a una rada di pregio, a un parco marino, poi inibisce completamente qualsiasi tipo di combustione tipica dei motori a ciclo interno, e diventa elettrica, completamente elettrica, entra nel parco marino o nel porto o ovunque ci sia, diciamo, il desiderio di evitare l'impatto ambientale. Entra, vive, rimane, la gente può fare il bagno intorno alla barca, qualsiasi cosa senza sentire rumori o odori o emissione di CO2 e tutti gli altri composti tipici del gasolio. Quindi anche se un oggettone da 90 tonnellate, si riesce a muoverlo con una sorgente energetica elettrica? Molto bene, tra l'altro recentemente abbiamo completato il Giro d'Italia con questa barca e quindi personalmente ho fatto parecchie miglia testando questa funzione, e vi assicuro che è estremamente piacevole, oltre che di basso impatto. Piacevole nel senso che ci si gode al massimo il sapore del mare dal punto di vista olfattivo e anche il rumore del mare. E quindi oltre che un basso impatto è proprio un piacere andare con questo mezzo. Va bene, allora ingegnere, noi la ringraziamo e verremo a trovarla a Genova. Grazie a voi, siete benvenuti. Buonasera. Grazie, arrivederla. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Non ci sono particolari novità dal CERN di Ginevra, dove l'LHC si è fermato 10 giorni fa. La notizia, molti di voi l'avranno sentita o letta, 2 magneti superconduttori hanno subito gli effetti di un cortocircuito e hanno smesso di funzionare, una rottura quindi, la cui entità non è facile da valutare perché nel tunnel dell'LHC fa molto freddo, c'è dell'elio liquido che si è liberato oltretutto, e questo elio che porta giù a 270 gradi sotto zero, e quindi metterci il naso non è consigliabile. La temperatura la stanno portando su e poi si vedrà. È probabile che per rimettere le cose a posto e riprendere le attività di ricerca si andrà dopo Natale, forse anche un po' di più. Dispiacere naturalmente, ma niente di sorprendente, è una macchina complessa, anzi è la macchina complessa. Ma che storia c'è dietro il CERN e i suoi acceleratori? Ascoltate Maurizio Menis. L'LHC si è rotto e potrebbero volerci 6 mesi per ripararlo, e certo 6 mesi sono tanti. Eppure, scorrendo la storia ultracinquantenaria del più grande laboratorio scientifico del mondo, si può star certi che l'incidente occuperà poco più di una nota a piedi pagina. E già, perché l'LHC è solo l'ultimo di una serie di esperimenti iniziata negli anni 50. E di questi esperimenti però il più importante, che si è svolto là sotto lungo 27 chilometri di tunnel sotterraneo tra Francia e Svizzera, non ha forse a che fare con la fisica, ma potremmo dire con la sociologia. Perché quella del CERN è anzitutto la storia di un grande, inesauribile esperimento di alchimia umana. Oggi il CERN è una città di 8.000 abitanti. Non una città qualunque, perché faticherete a trovarci 2 persone che sono nate davvero nella stessa città, mentre vi imbattereste in americani e iracheni che lavorano insieme, in studenti sauditi che imparano da fisici israeliani. Ma nel 1954, anno della fondazione, il CERN era solo 12 firme su un pezzo di carta. Nasceva così da un nucleo di paesi molto simile a quello che pochi anni dopo avrebbe dato origine al primo embrione dell'Unione Europea. Pochi sanno che già allora, per i suoi fondatori, il CERN aveva 2 obiettivi. Mettere insieme le migliori menti della fisica nucleare e rimettere insieme l'Europa dopo la devastante stagione bellica degli anni 40. Infatti questo affermano andando all'osso i primi 2 punti dello statuto del CERN. Con un'altra clausola, non meno importante, in piena escalation nucleare: il divieto assoluto di sviluppare tecnologie belliche e l'obbligo di rendere pubblica qualunque scoperta. Inizia così la storia del CERN con 2 LINAC, 2 piccoli acceleratori lineari di particelle, e prosegue con una sfilza di sigle in cui è facile perdersi: PS, SPS, LEP e così via, insomma. E con l'accumularsi delle sigle, negli anni sono cresciuti anche i successi. All'inizio il CERN ha sofferto la competizione con i più forti americani, ma poi arrivarono la scoperta delle correnti neutrali nel 73 e nell'83 dei bosoni VZ e Z0, che sono valsi il Nobel a Carlo Rubbia. Uscì un articolo quell'anno sul New York Times, titolava «Europa 3, Stati Uniti, neanche Z0». Insomma, gioco di parole abbastanza chiaro, ma questa fu forse la prova più eloquente che il CERN era entrato nell'Olimpo della ricerca sull'infinitamente piccolo. E così infatti a Ginevra cominciarono a fioccare anche ricercatori americani, mentre i russi erano già là, perché se i paesi membri del CERN sono una ventina, tutto il mondo è presente dentro quell'anello. Ebbene, l'ex direttore generale del CERN, Erwin Schopper, qualche tempo fa ha detto: «Sono convinto che tutti i soldi spesi al CERN si giustifichino anche solo per quanto è stato raggiunto in termini di reciproca comprensione fra diverse nazioni. Perché il CERN è anzitutto un messaggio, forse il genere di messaggio che l'Europa, quella più lungimirante come quella del Trattato del 54, può lanciare al resto del mondo». La pioggia c'è, ovvero ogni tanto piove, è un fatto naturale, dovrebbe esserlo almeno. Perché la domanda è: le condizioni di inquinamento atmosferico, che non sono queste un fatto naturale, in che modo influiscono sulla pioggia? Ascoltate Chiara Albicocco. Pioverà o non pioverà? Chi può dirlo? L'enigma ovviamente non può essere sciolto con rigore, ma una cosa è certa. Recentemente un gruppo di ricerca internazionale ha finalmente svelato il rapporto che c'è tra inquinamento e precipitazioni. La notizia è di grande importanza perché fa luce su uno degli aspetti che rende più incerta la formulazione di alcuni modelli climatici. Il nostro ospite è Sandro Fuzzi dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR di Bologna. Diamo il benvenuto, buonasera Fuzzi. Buonasera. Ecco, lei rappresenta la frazione, diciamo così, italiana di un gruppo di ricerca in realtà più ampio, internazionale, che ha svolto questo studio molto importante, pubblicato a settembre sulla rivista Science, che svela il rapporto tra l'inquinamento e le precipitazioni. Ecco, iniziamo con il capire qual è il risultato di questo vostro lavoro. L'obiettivo che questo lavoro aveva era di fare un po' chiarezza su dati che già erano disponibili in letteratura e che in alcuni casi riportavano come un aumento della concentrazione di particolato atmosferico in atmosfera favorisse le precipitazioni, mentre invece altri studi riportavano che si verificava l'effetto opposto, cioè che il particolato prodotto dall'inquinamento produceva una soppressione delle precipitazioni. Ecco, voi avete fatto chiarezza, che cosa significa? Beh, significa che vi sono due effetti che il particolato ha sulla formazione delle nubi e quindi sullo sviluppo delle precipitazioni. Questi due effetti lavorano in senso opposto, quindi quando prevale, a seconda dell'effetto che prevale, si ha appunto o soppressione o sviluppo delle precipitazioni, quindi i dati che erano stati riportati erano corretti e ciò che abbiamo fatto è stato razionalizzare, spiegare le ragioni di questa apparente dicotomia. Questo non significa che per forza in una città inquinata, che ne so, pensiamo a Pechino, piova di più rispetto a una zona di montagna o rispetto a una città meno inquinata, pensiamo non so, a Stoccolma, giusto? Beh, dunque, diciamo che innanzitutto gli studi delle precipitazioni debbono essere rapportati ad aree piuttosto ampie, quindi non si può parlare di regioni, sì, regioni ristrette, perché le precipitazioni appunto hanno origine e si sviluppano a una scala un po' più ampia. Diciamo che nelle aree molto inquinate, appunto la Cina a cui lei faceva cenno è un esempio evidente, si è verificato negli ultimi decenni una diminuzione delle precipitazioni. Ecco, una diminuzione, questo che cosa significa? Cioè, perché è importante capire il rapporto tra la pioggia e l'inquinamento, tra il particolato appunto diffuso nell'atmosfera e invece la formazione di nubi? Infatti le nubi hanno bisogno del particolato per formarsi. Se non ci fosse particolati in atmosfera non ci sarebbero nubi, quindi il fatto è che aggiungendo appunto particolato oltre un certo livello i nuclei sono troppi, diciamo, devono competere molte particelle per la stessa quantità di vapore acqueo, il che vuole dire che le nubi sono formate da goccioline estremamente piccole. Le goccioline piccole hanno difficoltà a coagulare fra loro e dare luogo a gocce che possono poi, di una dimensione tale che possono poi stimolare la precipitazione. Quindi se c'è troppo particolato, ecco, succede il caso contrario, cioè le precipitazioni diminuiscono. Sì, ecco, se c'è un aumento moderato del particolato si ha l'effetto di uno sviluppo delle precipitazioni, un aumento. Precipitazioni, ma a carichi di particolato molto elevati invece l'effetto è quello della soppressione. E senta professore, in conclusione, quali mezzi avete utilizzato per giungere a queste conclusioni? Avete utilizzato dati satellitari, modelli matematici? Beh, dunque, questo lavoro è stato essenzialmente un lavoro di riesame di una grossa mole di dati già disponibili nella letteratura, quindi sia misure in varie aree del globo che anche dati satellitari. Mediante questo riesame è stato elaborato questo modello concettuale di cui parlavo, appunto, che ha chiarito questa dicotomia, questo effetto duplice dell'aerosol sulle precipitazioni, e credo che l'importanza di questo lavoro sia che questo modello concettuale verrà poi incluso nei modelli climatici e permetterà una migliore definizione dell'andamento delle precipitazioni in futuro. Finisce qui questa puntata di Möbius. Buona serata a tutti e a tutte, ci sentiamo la prossima settimana. Ci fermiamo adesso per una breve pausa, torniamo con un numero fatto di 13 milioni di cifre. È l'ora del traffico, sentiamo cosa succede sulle nostre strade.